America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Dimostrazioni, devo dire, la questione razziale ha dominato molto in Italia, ha dominato in contemporanea negli Stati Uniti. È strano, è bizzarro, non succede spesso che ci siano delle proteste in simultanea per questioni che tutto sommato hanno una stessa radice, questioni che riguardano l'insofferenza. Eppure temo che si sia fatta un po' di confusione su quello che è successo in America con l'assoluzione di George Zimmerman per l'omicidio di Trayvon Martin, il 17enne di colore disarmato, ucciso appunto dal vigilante in Florida. Ci sono state proteste, le voci che vi ho fatto ascoltare erano di un paio di giorni fa, proteste dei dimostranti a Los Angeles avevano occupato la superstrada numero 10, ci sono state poi proteste anche a Chicago, a New York, a Times Square, c'è stata, come dire, la percezione di un'ingiustizia. But my main message is to the parents of Trayvon Martin. Ecco, il primo che ha cercato di gettare un po' d'acqua sul fuoco è stato lo stesso presidente Barack Obama, il primo presidente afroamericano che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, il simbolo di come questo paese sia ormai avanti, si sia evoluto, si sia emancipato. Uno immagina che non dovrebbero esserci dei rigurgiti razziali nel momento in cui c'è un presidente afroamericano che siede alla Casa Bianca. Eppure ci sono, e come, ci sono ogni giorno. Barack Obama tuttavia ha puntato sul fatto che, insomma, una giuria ha espresso un giudizio, c'è stato un processo che ha seguito la legge americana e dunque, prima di tutto, la legge deve essere rispettata per quello che è. È vero che il Dipartimento per la Giustizia sta preparando una istruttoria federale per questo caso, che ci sarà quasi sicuramente anche una istruttoria civile, però abbiamo visto come la reazione è stata immediata. E devo dire, questo mi ha riportato alla memoria quello che capitò molti anni fa, nel 91, stiamo parlando di quasi 25 anni fa, quando ci fu il caso di Rodney King. The three police officers facing felony criminal charges were among a group of 15. Bene, in tre parole, il 3 marzo del 91 Rodney King fu accerchiato da poliziotti di Los Angeles, lo hanno accerchiato e lo hanno picchiato veramente senza pietà. Che è successo? Che qualcuno ha fatto un video in lontananza, questo video è stato distribuito un po' dappertutto in America, ha creato sensazione senza precedenti e ci fu poi il processo. Che capitò? Che per il processo di Rodney King quattro poliziotti furono assolti. Ecco, questo portò non a delle dimostrazioni, ma a dei riots, a delle vere e proprie guerriglie urbane, con delle dimostrazioni violente proprio contro questa ingiustizia, perché di ingiustizia si è trattato. Quattro poliziotti, cinque poliziotti che infierivano contro una persona che non si poteva difendere. E purtroppo quei riot, quella guerriglia urbana nel 92 ha causato 52 morti. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097. O.J. Simpson, questo è un caso al contrario, perché diciamo che l'America era talmente sotto shock ancora nel 94, dopo gli incidenti del 92, che a Los Angeles, nonostante sembrava che ci fossero prove contro O.J. Simpson, prove per questo suo presunto omicidio nel 12 giugno del 94 di Nicole Brown Simpson, della moglie divorziata che stava tornando a casa con Ronald Goldman, il cameriere del ristorante Mezzaluna a Los Angeles. Ecco, nonostante le prove sembrava fossero schiaccianti, la giuria non ha osato esprimere un giudizio di condanna di O.J. Simpson, si temevano altre dimostrazioni. L'afroamericano che ha ucciso una donna bianca, i poliziotti bianchi che hanno picchiato un afroamericano e facendo un salto appunto ai nostri giorni, George Zimmerman, un latinoamericano che ha ucciso un teenager nero totalmente disarmato. Fino all'altro giorno, venerdì notte, un altro episodio a New York, un uomo bianco che sembrava ubriaco, attacca briga con una coppia di colore. In realtà il ragazzo di colore, Douglas Reddish, si era alzato per aiutarlo perché si era accorto che questo ragazzo bianco era completamente ubriaco, barcollava, non sembrava che dovesse cadere da un momento all'altro. Nel momento in cui l'ha avvicinato, quello si è voltato e con rabbia lo ha chiamato nigger, negro, se ho perso il mio lavoro è per colpa tua. A quel punto Reddish non ci ha visto più, lo ha colpito con un pugno, il ragazzo bianco è caduto per terra, ha battuto la testa, ha perso del sangue, è stato portato all'ospedale. Risultato: Reddish è stato arrestato. Bene, dunque una storia di tensioni razziali in America, però anche una storia di tensioni razziali che è molto diversa da quella nostra, perché nessuno a livello istituzionale negli Stati Uniti si permetterebbe mai di dire quello che ha detto il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, sottolineo vicepresidente del Senato, contro Cecil Kyenge, il ministro dell'integrazione, con me Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera in America, che conosce a fondo questo paese. Paolo, sei d'accordo? Potrebbe succedere in America quello che è successo in Italia con Calderoli? Ma assolutamente no. In America qualcuno che oserebbe dire una battuta come quella di Calderoli sarebbe immediatamente storia, tra parentesi, infame di quel paese, dovrebbe andarsene via con ignominia. Eppure Calderoli non se ne va, dice no, io resto, perché poi così diciamo accampa al fatto che ci sono stati dei malintesi, a un certo punto dice persino qui c'è qualche gioco più grande. Insomma, la verità è che Calderoli è un razzista e del resto lo dice chiaramente in questa battuta che ti voglio far ascoltare. È stata una battuta, ma una battuta nel termine della simpatia. Va benissimo come ministro a casa propria e visto che questo è il governo che deve governare l'Italia, mi auguro che sia fatto da italiani. Ecco Paolo, secondo me questo è ancora più significativo di quello che ha detto, perché c'è il gap culturale, cioè lui dice ma che la Kyenge vada a fare il ministro a casa sua, ma la Kyenge è italiana o sbaglio? Non c'è dubbio che la Kyenge sia italiana. Ma è questo che Calderoli non capisce, che pur nella diversità degli approcci, perché l'America è un paese di immigrati, nell'era globale l'immigrazione è una risorsa e l'Italia questo ancora non lo ha recepito e rimaniamo ancora con una legislazione retrograda rispetto alle necessità del momento. Beh, soprattutto con una cultura, secondo me, perché poi vediamo anche i cartelli contro Ballotelli allo stadio, piuttosto che le battute per strada. E il problema vero è che quando uno come Calderoli dice quello che dice, in qualche modo autorizza quelle che sono le manifestazioni più retrograde del nostro paese, della nostra cultura. Esattamente, Mario, esattamente questo è il punto. Esiste una percentuale fisiologica di razzismo in ogni paese. È compito della classe politica guidare e indicare all'opinione pubblica qual è la strada giusta. In questo senso la responsabilità della classe politica è enorme e in questo senso la responsabilità di Calderoli è gravissima per quello che ha detto. Ecco, chiudo con Frank Bruni, lo conosciamo, un amico, è stato il corrispondente del New York Times dall'Italia, ha fatto un tweet e dice: ah, Italia, il tuo cibo, la tua arte, la tua terra, incomparabili, e le tue politiche? Incomprensibili. E poi cita una Reuters che descrive per filo e per segno quello che ha detto Calderoli, e devo dire è imbarazzante leggerlo perché in inglese lo ha letto il mondo intero. Come reagisci alle parole di Bruni? Reagisco che ancora una volta facciamo un danno enorme all'immagine dell'Italia nel mondo, che ancora una volta continuiamo a farci del male. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter a @MarioPlatero, visto che oggi abbiamo parlato di razzismo e di un tema caldissimo. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come abbiamo visto, la battaglia per i diritti civili della comunità afroamericana non è ancora finita, nonostante ci sia un presidente afroamericano alla Casa Bianca. E dunque, in onore di una rivoluzione ancora in corso, vi faccio ascoltare di Nina Simone, Revolution. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.